Ehi, benvenuti a questa puntata. Sto registrando questo pezzo in questa capsula temporale che è la puntata di aperitivo ludico, perché poi potrete ascoltarla quando vorrete ascoltarla, come un'aggiunta. In realtà poi mi vedrete salutarvi di nuovo. È perché volevo dedicare un minuto prima della puntata, un minuto, un po' qualche secondo, a purtroppo quello che è accaduto in Francia, di cui non mi permetto e non voglio parlare, ma che senz'altro ha toccato la mia vita e di tutti quelli che gli altri, di tutti gli altri. Sto parlando di naturalmente gli attentati in Francia, e nonostante la vita deve andare avanti lo stesso, voglio comunque dare un segno anch'io che tutto questo non è giusto e non dovrebbe succedere. Ehi là, benvenuti anche a questa puntata di Aperitivo Ludico, la 10. Come vedete, oggi ho le cuffie perché sto trasformando questo appuntamento sempre più in un podcast e sempre meno in un filmato, anche perché, come potete vedere, c'è ben poco di cui godere della vista. Ma spero che possa interessarvi invece possano interessarvi le chiacchiere che cianciamo in questo spazio in cui io chiacchiero con voi della mia passione, cioè di giochi di ruolo, di narrazione. Questo è Aperitivo Ludico, questa è la decima puntata, io sono Marco Andretto. Oggi di cosa parliamo? Di quale gioco parliamo? Parliamo naturalmente fuori tempo come al solito. Cosa vuol dire fuori tempo? In ritardo, come del resto un po' tutta la mia vita, tranne in alcuni casi, ma per la maggior parte, di Fantasmi Assassini, un gioco che vuole ricreare una storia horror, un gioco per due giocatori. Un gioco pubblicato da Narrativa e scritto da Vincent Baker, lo stesso del mondo dell'Apocalisse, che poi ha dato vita ad altri giochi tipo Il Mostro della Settimana, Cuore di Mostro, Dungeon World, che magari qualcuno di questi lo conoscete. Un gioco un po' particolare, anche questo derivato dal mondo dell'Apocalisse, ma un po' particolare. Perché? Perché intanto è un gioco per due giocatori e basta, e poi che è diviso in due libretti ed è, sembrerebbe almeno molto diverso da Il Mondo dell'Apocalisse. In realtà le meccaniche dentro sono derivate, cioè hanno preso alcune cose all'interno del mondo dell'Apocalisse e l'hanno riutilizzate in questo gioco. Gioco che vede un esploratore urbano, che sarà uno dei due giocatori, perdersi nei cunicoli, nei sotterranei di una città, di una metropoli, e incontrare, sfortunatamente per lui, un fantasma, una creatura che è rimasta imprigionata nel nostro mondo e che ha desiderio di vendetta, di violenza, perché ha subito un trauma quando è morta. E non si sa con quali intenzioni resta nel nostro mondo, come nella migliore tradizione dei film horror, in cui, perdendosi da qualche parte, il protagonista incontra uno dei suoi peggiori incubi. Cosa parleremo di questa puntata? Parleremo di come le meccaniche aiutano a ricreare una storia horror facilmente, di come e in 20 minuti, perché questo gioco dura mezz'ora, parleremo un po' di Libri Game, perché questo gioco è, non dico ispirato, però rubacchia qualcosa di carino dai Libri Game, se qualcuno li conosce. Qualcuno conosce il Lupo Solitario o le edizioni EL, per esempio, o della Steve Jackson Games, un po' di storia dei Libri Game. E alla fine parleremo finalmente di GDR Unplugged, che parte questa settimana con la mia giocata, le mie giocate, anzi fatte con Simone Spiegel Micucci, che salutiamo, che ci segue segue sempre quest'estate. Due giocate che possono far capire, possono farvi capire come funziona questo gioco, anche perché sono riuscite particolarmente bene. Magari saranno non da rotolarsi da ridere, anche perché è una storia horror, ma sicuramente ci sarà ci saranno dentro cose interessanti e saranno molto istruttive per chi vuole ascoltarle magari nei vostri momenti di pausa, relax o mentre lavate i piatti, mentre cucinate, al posto di accendere la radio che non si sa mai cosa facciano o non ci sono cattive o cose cattive o poco interessanti, voi vi accendete il vostro MP3 sul vostro lettore, sul vostro cellulare, ormai è diventato comodissimo, e vi ascoltate come funziona Fantasmi Assassini. Più semplice di così. Seconda parte, tra virgolette, di aperitivo ludico. Parliamo un attimo dell'introduzione al gioco, di cos'è Murderous Ghost, Fantasmi Assassini, di cosa tratta. Allora, dicevamo prima che è legato ai libri game. Perché? Perché il manuale è diviso in due libretti. Uno per l'MC, il master, tra virgolette, che muove i fantasmi e il mondo, e uno in mano al giocatore. A seconda di quello che succede, un manuale, un libretto, rimanda agli altri libretti di tot pagine. Il manuale, la confezione è questa, e dentro, voi per chi non la vede, è sottilissima ed è praticamente un cofanetto che richiude due libretti di una trentina, quarantina di pagine, non mi ricordo, ma assolutamente in copertina questa immagine molto evocativa di questo fantasma assassino, ok? Dicevamo che rimanda ai libri game. Alla veneranda età di 40 anni, oggi riprendendo in mano Fantasmi Assassini dopo averci giocato, mi è venuto in mente il mio esordio con i libri game. Ero alle elementari e in gita con la scuola siamo andati a una libreria per invogliarci a leggere. Cosa ho scelto quella volta tra tanti libri che mi affascinavano, che potevo... una storia di Peter Pan in cui si poteva scegliere il finale. Credo che sia il mio inizio con i libri game. Ricordo ancora che il maestro di allora mi prese in giro per la scarsità di pagine del libro, cosa che poi magari non era del tutto vera, nel senso che ero piccolo e sì, magari guardavo anche quella cosa lì, ma mi interessavano di più le figure. Ma poi avrei pagato magari col Signore degli Anelli o il Trono di Spade che di libri, che di pagine ne hanno. Parlando sempre di libri game, sono andato a guardare un po' in internet e Wikipedia dice che l'origine dei libri game è un attimo difficile da datare. Si parla addirittura che negli anni 40, così per curiosità, ci fossero i primi esperimenti con dei libri didattici. Cioè ogni paragrafo, ogni capitolo spiegava qualcosa, alla fine faceva una domanda, se rispondevi esattamente mandava il paragrafo successivo che spiegava un'altra cosa. Se sbagliavi, mandava un paragrafo in cui ti spiegava cosa avevi sbagliato e perché. Se ci pensate, la meccanica binaria del libro game, successo, fallimento, manda questa pagina all'altra pagina, effettivamente è perfetta in questa situazione. Ma non erano libri game, ce ne sono stati degli altri, altre evoluzioni, qualcosa in cui ci si parla di un libro in cui si narrava di il protagonista che andava a costruire un labirinto, si ritirava a costruire un labirinto, e il libro era costruito proprio il libro come un labirinto, per cui dovevi ricostruire l'esatta sequenza dei paragrafi, dei capitoli. Qualcosa di meno complicato sono i libri game. Ma a proposito, mi è venuto in mente che da questa puntata farò finta di avere qualcuno davanti. Voi non lo vedete, in realtà seduto davanti ho l'orsacchiotto della puntata scorsa. Se non l'avete sentita, andate a rileggerla, perché in preda ai fumi dell'alcol ho vaneggiato su un governo di peluche e puffi. Ma mi sono messo l'orsacchiotto davanti perché, non trovando qualcuno che mi assecondi in quest'idea folle del podcast sui GDR, sui giochi, vi faccio accompagnare dal mio fido scudiero, l'ultima volta doveva essere il ministro, orsacchiotto. Comunque, Oh, Sacchiotto, devi sapere che i libri game, come li intendiamo ora, sono una cosa che nasce alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, con Choose Your Adventure, scegli la tua avventura. Scusate, una casa editrice si inventa il fatto di poter scegliere come proseguire l'avventura. Questa negli anni 80 ha un successo strepitoso, in cui ognuno legge questi libri e manda avanti l'avventura come un antenato dei videogame, dei moderni videogame, in cui per esempio cose come Dragon Age o Skyrim, tu scegli come mandare avanti l'avventura con delle scelte, oppure quelle della Telltale, senza voler andare sui GDR duri e puri, più delle avventure cinematiche, serie TV se vogliamo chiamarle così. Tra l'altro ho giocato The Wolf Among Us, ho giocato Tales from Borderlands, giochi veramente molto carini che vi consiglio, in cui le è Life is Strange, che non è della Telltale, ma in cui le scelte che fate sono molto importanti. Parlavamo di libri game, antenati di questi videogiochi in cui le scelte sono importanti. Se vi ricordate, l'editrice EL ne ha pubblicati parecchi, per esempio la serie di Lupo Solitario, che è una delle più famose per quanto riguarda i libri game. Esistono libri game a più giocatori, esistono libri game su varie tematiche, addirittura ho scoperto che ce ne sono stati su Indiana Jones, su James Bond, un sacco di cose, ok? A proposito, devo guardare Spectre, devo andare al cinema, dicono che sia carino. Dopo aver visto Skyfall, per quanto riguarda film di James Bond, mi sono appassionato a James Bond, cioè l'ho sempre conosciuto, sempre trovato figo, ma Skyfall è un filmone, consigliato. Chiusa parentesi, torniamo ai libri game. In questo gioco ogni pagina vi guida su quello che dovete fare, lasciandovi liberi di dare una vostra interpretazione alle meccaniche, a quello che la pagina dice. E in questi sotterranei il vostro esploratore urbano riuscirà forse a salvarsi o a scoprire perché o cosa cerca il fantasma, questo fantasma assassino, tra virgolette. È un gioco che si gioca a due. Una volta preso in mano il libretto è molto facile giocarlo, si gioca in mezz'ora, un'ora, per 20 minuti, mezz'ora, per cui magari quando vi resta dello spazio libero tra un gioco o l'altro, o volete tipo Halloween giocare a un gioco horror, ve lo consiglio caldamente, anche perché i giochi da tavolo difficilmente riescono a ricreare quell'atmosfera di paura, mentre in questo gioco si riesce attraverso la fiction magia dei giochi di ruolo, ok? Bene, quindi passiamo oltre e andiamo a vedere come questo gioco riesce a ricreare questa sensazione di paura horror. Scusate il silenzio, per chi non mi sta vedendo, stavo bevendo il mio aperitivo, ok? Nei nostri studi super tecnologici, voi ne potete vedere una porzione, perché fuori da questa porzione c'è il finimondo, il caos, un drago, un guerriero albino, un sacco di cose voi non potete nemmeno immaginare, c'è perfino un unicorno rosa, ma non ve li mostrerò, e voi che siete invece in ascolto sul podcast li potete bene immaginare. Quindi vantaggi, vantaggi, vantaggi a chi ci sta ascoltando in podcast. Passiamo all'ultima parte, ok? No, scusate, non l'ultima parte, ma la penultima parte, in cui affondiamo le mani nel vasetto di Nutella e andiamo a impasticciarci a capire come funziona il gioco. Semplicissimo, in parole semplici come al solito, anche perché altrimenti diventa una cosa noiosissima. Se avete provato altri giochi di ruolo o altri giochi scatola, sapete che ci sono delle meccaniche che permettono di ricreare situazioni, tipo sui Monopoli, comprare i contratti, vendere i contratti, pagare le tasse, ricrea quella meccanica di sto conquistando il mondo a forza di un soldo alla volta, tra virgolette. Se avete giocato a giochi di ruolo, sapete che per esempio in Dungeons & Dragons o giochi simili ricrea una specie di fisica del mondo, un mondo virtuale tipo videogame, in cui faccio cose, tiro per saltare, tiro per convincere, 28 metri, li corro in una mossa, in un'azione se posso fare 14 metri, eccetera, eccetera. tutto invece è un gioco che punta più sullo scrivere un racconto, raccontare una storia, scrivere la trama di un film, trama di un film horror in questo caso. Come ci riesce? Dicevamo prima che è legato al mondo dell'Apocalisse, in diverse maniere, ok? Nel mondo dell'Apocalisse e i suoi derivati ci sono le mosse. Le mosse si attivano in determinati momenti di fiction, per esempio quando cerco di fare qualcosa di rischioso, quando cerco di ipnotizzare qualcuno, quando cerco di fare del male a qualcuno, tiro i dadi e le mosse mi dicono come prosegue la fiction, se ci riesco e in che maniera, ma non semplicemente sì ci riesco, ma ci riesco e succede qualcosa. Scusate, aperitivo ludico fino in fondo, molto vero, molto vivo, yeah. Comunque, dicevamo, come va avanti la fiction? E questa è la cosa figa della mossa, cioè, uè, la mossa, ehi. Comunque, scusate, comincio a essere ubriaco, finisco il bicchiere. Vai avanti tu, Sacchiotto, intanto. Ah, no, ok, non ti pagano abbastanza, va bene. Dicevamo che le mosse ti dicono anche come va avanti. Per esempio, in questo gioco, un derivato della mossa, cioè per esempio, se tu stai tentando di affrontare il fantasma, sul libretto rimandi la parola all'MC, al master, sul suo libretto ci sarà scritto di farti pescare una carta e a seconda del risultato delle carte, sul libretto ci sarà scritto con che mood reagisce il fantasma, ok? Perché dicevo carte? Sì, perché qui non ci sono dadi, ok? C'è una meccanica in cui, continuo a dire ok, scusatemi, c'è una meccanica, un sistema in cui c'è un mazzo di carte e tu peschi delle carte se la somma delle carte che hai davanti, un po' come i blackjack, resta in un range predefinito, tipo da 12 a 20, adesso non lo ricordo esattamente, di solito ti va bene, ok? Se superi il 20 ti va male, se sei sotto il 6 ti va male, dai 6 ai 12 ti va malino, ok? Benino, malino. Le sconfine sottile, e sulla pagina del libretto che andrai a leggere, perché ogni pagina ti dice cosa fare e poi rimanda a un'altra pagina, quindi sarà, ma se ascoltate la puntata GDR Unplugged di questa settimana lo vedrete benissimo, ogni giocatore dice all'altro giocatore vai a pagina 5, ok? Succede questa cosa e vai a pagina 5. Comunque, a seconda del risultato, e la pagina ti dirà il tuo personaggio è spaventato da quello che succede e quindi non riesce a fuggire. Tu descrivi come il tuo personaggio crolla a terra sulle ginocchia e inizia a piangere, oppure comincia a battere sulla porta chiusa perché nel frattempo avevate raccontato che una porta è chiusa, e descrivi come il tuo personaggio, come si muove, come in un gioco di ruolo. Però la pagina ti dice quello che succede, la mossa e la pagina ti dicono quello che succede, come in un libro game, ok? Facilissimo, le meccaniche guidano molto, cosa che non lascia mai spaesati, cosa che in un GDR un po' più corposo, tra virgolette, o un po' più tradizionale, succede, ok? Ti dice, non dirò più, ok? Troppo tardi, l'ho detto. Metallo! Scusatemi, citazione da Leo Ortolani e Ratman, che vi consiglio, tra l'altro. La saga del Dottor Destino. Comunque, tornando un attimo, dalla parte del Master anche lì si è molto guidati. C'è molta scelta, soprattutto all'inizio ti dice immagina com'è il fantasma, perché è qui. E qui il giocatore dell'MC, il Master, può andare a ripescare dal suo immaginario, dal film horror che ha visto. Magari è una persona con tanti chiodi in testa, con la fissa dei chiodi. Voi direte, lavora al brico? No, pescato da un famoso film horror. Ok, Eraser. Un altro potrà immaginare che il fantasma esce dagli incubi della persona, dalle pareti, è una maglietta a righe rossa e verdina, grigia verde, ok, perfetto, con gli artigli. No, no, non vuoi avere vestito male, ok? Altri potranno immaginare altre cose, cioè l'MC ha pieno diritto sia sul descrivere, per esempio ti dice descrivi la prima stanza, può essere in cemento, può essere in metallo, può essere lo scantinato in una fabbrica, ti dà delle dritte, tipo non descrivere una via d'uscita. Perché? Perché così facendo ti permette di giocare. Ti dice, descrivi una via d'uscita solo nel caso in cui le carte dicano che il giocatore può scappare, ok? Il giocatore, il gioco ti guida, guida molto in queste cose, per cui ti lascia solo lo spazio per metterci dentro la tua fantasia. Un po' come se avessi un amico vicino, Heila, esatto, che ti dice come funziona il gioco e tu devi solo metterci la parte figa, la parte della fantasia, cercando di far terrorizzare, cercando di fare la storia più horror figa possibile, perché il compito dell'MC è creare una storia di paura, ok? Metterci dentro tutte quelle cose che gli fanno paura, che gli fanno più paura, e dal lato del giocatore, del personaggio, immedesimarsi in questa storia, immedesimarsi nel personaggio e vivere con passione questa storia, ok? Lo scopo non è uccidere il giocatore, uccidere il personaggio, uccidere il giocatore. Magari se vi sta sulle palle, ma allora non giocateci assieme se vi sta sulle palle, uccidetelo e basta, no? A proposito, apriamo un podcast su Killing Your Friends. Forse avrebbe successo. Vabbè, comunque, torniamo un attimo indietro. Scopo non è uccidere il giocatore. Ci penserà il gioco, le sue meccaniche, a decidere se il personaggio sopravvive, ok? Lo scopo dell'MC non è competitivo con il personaggio, col giocatore del personaggio, per ucciderlo, ma è collaborativo col personaggio per costruire una storia figa e di paura. Osetto, ti trovi in una stanza buia e qualcuno ti strappa un braccio. Che faccia abbastanza paura. Due braccia. Ok. Tre braccia. Va bene. Bentornati ad Aperitivo Ludico. Io poso il biscotto che stavo mangiando. Qui non c'è nessun biscotto. Cerco di convincervi, come il peggio dei Pulcinella, che non stavo mangiando, per chi mi ha visto nelle prove, per chi è in podcast. Magari faremo sentire l'effetto sonoro del biscotto che viene mangiato. Mi propongo come effettuatore dell'effetto sonoro. E del resto, effetto, effettuatore. E andiamo a bomba, come in piscina, nell'ultima parte di Aperitivo Ludico, in cui parliamo di GDR Unplugged, questo progetto che stiamo lanciando noi di GDR Unplugged, pubblicato ogni giovedì in teoria, in cui verranno registrate e pubblicate delle sessioni di gioco, ok, dei giochi che giochiamo di solito noi. Ma avrete visto nelle puntate scorse di Aperitivo Ludico che ve ne avevo già parlato, finalmente la settimana scorsa avevo annunciato la prima puntata di Mostro della settimana, per fortuna è in fase di post produzione, per cui ve la pubblicherò più avanti. Giovedì invece troverete Fantasmi Assassini, che ho giocato con Simone quest'estate. Troverete una puntata questa settimana e una puntata probabilmente più avanti. Adesso vediamo come pubblicarla, alla fine non dura tantissimo, per cui potrei pubblicarla entrambe, vediamo. È che non voglio darvi tutto subito, prima dovete sganciare la grana. Tu fa vedere oro, io fa vedere cammello. Comunque, cos'è GDR Unplugged? GDR Unplugged è la registrazione delle cose. Siamo io, Oli, Anna, Kelle e Lisa. Al momento in fase speciale Simone e Giulia, ok? Adesso i nomi non vi diranno granché, ma vedremo di conoscerli e presentarli, vedrete di conoscerli e vi vedrò di presentarli man mano che andremo avanti, ok? Con le puntate. Abbiamo registrato, posso darvi delle anteprime, abbiamo cominciato a registrare il Mostro della settimana in questa campagna intitolata Incubi, ok? La prima sessione è stata un po' un incubo per me, perché eravamo in un locale che si chiama Art & Chocolate, ospite Art & Chocolate a Verona, e resistere alla tentazione delle fette di torta alte 30 cm o delle cioccolate o della birra, a cui non abbiamo resistito, è stato veramente un incubo. Abbiamo registrato quest'estate e di recente, delle sessioni di Urban Shadow, Fantasmi Assassini che troverete, il Mostro a Settimana come vi dicevo, Saga of the Icelanders, un gioco che vi consiglio e che vi faremo ascoltare, magari di cui parlerò su in aperitivo ludico, in aperitivo ludico prossimamente, e di Memento. Giocheremo anche ad altro, anche perché stiamo giocando anche a Cuori di Mostro, che non abbiamo registrato perché era la prima campagna di Lisa e non volevo traumatizzarla. Abbiamo giocato al Mondo dell'Apocalisse e altri ne giocheremo ancora. Mi sembra che sia tutto. Io vi do appuntamento a giovedì con GDR Unplugged. Se state ascoltando questo aperitivo ludico prima di cena, vi auguro buona cena, altrimenti, come uno più famoso di me, buona vita e prosperità.